Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Amore, scusa, ti vorrei notiziare sul mio tipo di sonno, che nella sua prima fase, essendo molto rapido, è anche, ahimè, molto leggero. Quindi ti pregherei proprio la massima cautela nei movimenti con i piedi e soprattutto con le lenzuola. Entriamo nelle braccia di Morfeo? Sì, Raniero. Centriamo? Buongiorno a voi da Nicoletta. Chi di voi ieri sera si è addormentato, arrovellato e si è svegliato fresco e riposato con l'impressione di aver trovato la soluzione? Cerco testimoni, ma la notte, cari amici, non porta solo buone idee e soluzioni. Il fatto, dottore, è che io quando dormo russo e quando russo sogno. E sogno uno che dorme e che russa. Ma russa forte, russa più forte di me. Ma anche lui sogna. E che sogna? Sogna uno che dorme e che russa più forte, ma lui russa più forte di tutti, e russa forte, russa più forte di me, più forte di lui. Lui russa e fa un casino e tutto un carrussale e si sveglia tutti, sai, è un servetto di dormire, mi sveglio io, si sveglia lui e si sveglia quell'altro e russa forte. Russare forte in modo fastidioso come un trombone, una motosega, un trattore. Noi sappiamo essere molto creativi quando vogliamo parlare del ronfamento di chi dorme accanto a noi. Le metafore si sprecano, ma proviamo anche un po' ad ammetterlo, perché un po' russiamo tutti. Belli o brutti, si ronfa tutti. Lo rivela un'indagine Eurisco. È stata condotta un'indagine su un campione rappresentativo della popolazione e la morale è che lungo lo stivale è tutto un concertino. Andiamo. È russatore il 40% dei connazionali, 19 milioni e 600 mila, mentre le vittime del rumore notturno altrui sono il 27% della popolazione, 13 milioni di persone che rischiano notti in bianco. E se il russatore tipo è uomo over 45, il problema si tinge di rosa. Infatti il 44% appartiene al gentil sesso. Lo studio svela inoltre l'esistenza di vere e proprie famiglie di russatori, dove lui, lei e talvolta anche un altro parente russano, il 31%, e di super vittime del russare, dove oltre al partner russa anche un altro componente della famiglia. Il problema riguarda 2 milioni e 400 mila italiani. Tra i più fastidiosi sotto le lenzuola ci sono imprenditori e liberi professionisti da un lato, 15% dei russatori, e pensionati, 24% dall'altro. Meno rappresentate, al contrario, le categorie di studenti e casalinghe. La metà di chi russa, poi, sa come lo fa. E due russatori su tre azzardano precise metafore, ammettendo di assomigliare a una motosega, a un treno o a un trattore. Oppure a un orso o un leone, con buona pace di chi sta loro accanto. A cosa assomiglia il ronfo del vostro partner? E il vostro, confessatemelo. Intanto io voglio salutare il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno cara. Professore, russiamo un po' tutti, c'è chi lo ammette, chi no, chi ci ride, chi ci litiga, ma ci sono tanti luoghi comuni sul russamento. Proviamo a vederci un pochino più chiaro. Partiamo. Dormendo supini, con la pancia all'insù, si russa più frequentemente. Vero o falso? Ma questo è vero, perché la posizione supina è la posizione a maggior rischio di russamento. Perché per la lingua cade indietro. Sì, sviene. Esatto, la lingua scivola indietro e quindi si crea più facilmente quella subostruzione che crea il russamento. Però volevo già dare un messaggio importante su questo aspetto. Allora, quando il russamento è un russamento occasionale e soprattutto avviene solo in posizione supina, non dobbiamo spaventarci troppo. Voglio dire, il problema in genere diventa più importante quando il soggetto russa anche quando è sul fianco, perché allora vuol dire che il problema è andato avanti. È vero o falso che si può interrompere chi russa con un fischio oppure uno schiocco? In realtà, ecco, questi sono rimedi che possono creare un piccolo risveglio e quindi il soggetto smette di russare perché riprende una normale respirazione. Però ecco, non si può pensare di stare accanto a un russatore e per, diciamo, per 200 volte per notte mettere in atto questi meccanismi. Però sicuramente il fatto di risvegliare anche in maniera incosciente il soggetto spesso porta alla interruzione del russamento. Secondo lei, professore, quali sono i suoni che vanno più, sono più utilizzati? Il micio, lo schiocco? dire, ecco, cosa le raccontano? No, in genere la partner o il partner del russatore o della russatrice in genere mette in atto proprio l'aspetto, diciamo, motorio del movimento, cioè quindi scuote il soggetto proprio per cercare ma lì è cattiveria no? Ma è così, non è una cattiveria, Nicoletta. Il problema è che se uno tocca il soggetto più facilmente magari cambia posizione e quindi smette di russare. Molte volte, soprattutto se il soggetto è in una fase di sonno profondo, noi possiamo anche fischiare, ma sicuramente non c'è né il risveglio né il cambiamento di posizione. Professore, io ho adottato un rimedio, che è quello di tirare un po' il cuscino. Mio marito dice che non russa, in realtà anche lui russa, e allora io gli tiro un po' il cuscino e poi a volte smette. Andiamo all'altro luogo comune. La misura del giro vite non c'entra. Vero o falso? Questo allora è parzialmente vero e parzialmente falso, cioè nel senso che noi spesso in genere diciamo è importante il grasso, il peso corporeo generale. Ecco, noi abbiamo ormai scoperto una cosa fondamentale, che sicuramente il grasso in generale è importante, nel senso che purtroppo chi è sovrappeso tende a russare più facilmente, ma c'è un aspetto ancora più importante del grasso corporeo, che è la dimensione del collo, il grasso che c'è a livello del collo. Quindi noi abbiamo ad esempio delle misure standard, noi come società scientifica che si occupa di problemi del sonno abbiamo stabilito che avere un diametro del collo superiore a 43 centimetri per il maschio e 41 centimetri per la donna, ecco, spesso questa cosa si associa a un problema respiratorio notturno. Quindi se siete ancora in tempo, se vi state fidanzando, siete innamorati, misurate un attimo il collo del vostro partner e della vostra partner, 43 centimetri per l'uomo e 41 per le donne, sopra di questo il rischio è alto. Professore, possiamo dare questa indicazione? Sì, certo, però possiamo dare anche un'altra indicazione, che a volte basta perdere 4-5 kg, quindi non è che uno deve perdere tanto peso, bastano 4-5 kg per ridurre queste dimensioni del collo e quindi in questa maniera ridurre quel grasso che c'è nella zona sottomucosa delle prime vie aeree e quindi ridurre chiaramente il russamento. È vero o falso che russare non ha conseguenze sulla salute? Ma questo sicuramente diciamo è falso, perché il russamento, allora qui dobbiamo distinguere il russamento occasionale, diciamo così, il soggetto che magari russa una volta alla settimana perché magari il venerdì sera è abituato a mangiare un po' di più, a bere un po' di più e quindi si fa una sana russatina, ecco, ma questo russamento non è quello che ci deve preoccupare. Quello che ci deve preoccupare è il russamento di tutte le notti, è il russamento costante, e questo è il russamento, come dicevo prima, anche quando il russamento è presente non soltanto in posizione supina ma anche sul fianco, proprio perché spesso questo russamento si associa, dopo una lunga storia, al problema delle apnee. E allora sappiamo benissimo che il problema dell'apnea associato appunto al russamento vuol dire non riposare bene, avere il cortisolo che rimane alto durante la notte e quindi un rischio maggiore ad esempio di ipertensione arteriosa. Poi sappiamo che questo non è soltanto appunto l'ipertensione arteriosa ma anche quello che poi comporta in termini di rischio vascolare, quindi dobbiamo preoccuparci soprattutto appunto quando il russamento è abituale di tutte le notti e in ogni posizione. Laura da Padova, buongiorno, come russa Laura? Buongiorno, no, io non russo, però non ci credo. Di un russatore. E quindi vede le sue. Tanto è vero che molto spesso dormo con i tappi. E che verso fa suo marito, Laura? Ha un russare molto, molto forte, molto penetrante, però non è tutte le notti. Noi ci accorgiamo che lo fa quasi sempre quando è molto stanco e volevo appunto capire quanto incide la stanchezza sullo russare. Professore, la stanchezza fa russare e mentre si russa si cambia anche faccia, perché? Ma sì, allora è vero che quando si è più stanchi si tende a russare di più perché spesso aumenta la quota di sonno profondo, che è quel sonno che appunto facilita diciamo così il russamento, perché ci si rilassa ancora di più, perché l'organismo deve recuperare proprio le forze, quindi è in una sorta appunto di condizione di stand by sul piano energetico e quindi aumenta molto il russamento. La signora però diceva che il marito fortunatamente non russa tutte le notti, ecco, quindi magari in queste situazioni situazioni ci sono delle piccole strategie che possono aiutarci. Non so, per esempio, citiamo ad esempio soltanto il discorso ad esempio del cuscino alto, no? Sì. Ecco, quindi un cuscino molto alto che diciamo così ostacola un pochino l'eccessivo rilassamento della muscolatura e lo scivolamento della lingua indietro, ad esempio, può essere sufficiente. Come pure un altro rimedio a volte è il discorso della terapia posizionale, no? Cos'è la terapia posizionale? È una terapia che praticamente si attua creando una tasca dietro il proprio pigiama dove si può inserire una pallina da tennis, e questa pallina, in alcuni casi molto ostinati, noi addirittura facciamo una tasca che possa contenere due palline da tennis, e in questa maniera il soggetto tutte le volte che si mette in posizione supina deve cambiare posizione perché non riesce a restare in quella posizione. Quindi ecco, questi sono stratagemmi che, voglio dire, sono molto semplici, però spesso aiutano a risolvere il problema, soprattutto quando il problema è un problema, diciamo, non di tutte le notti. Ho qua davanti a me Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno, dice, ciao. Lo ascoltate sempre, oltre che nel GR, a 2024 il sabato, e me lo sto immaginando in pigiama con la pallina, sì, da tennis, però rossa. No, questo problema, insomma, fortunatamente. Non sappiamo, Roberto Scaltritti non ci crede, ma non ci credo neanche io, perché tant'è un rossetto. Che non ho potuto fare la prova di quello che tu mi avevi chiesto, cioè le applicazioni per gli smartphone che permettono di non rusare. Perché non ci sono, e di questo parleremo tra poco, perché ho Paola che ci aspetta da Catania. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io non mi risulta che russi, ma sono la compagna di un russatore che purtroppo lo fa in effetti, diciamo, tutte le notti, ecco, non ne passa una senza. Ma cosa fa? Motosega, treno? Diciamo è un russare grave, come frequenza è bassa, e sono quelle, devo dire, più fastidiose, cioè quando si attesta su questa frequenza qua sono proprio quelle che macinano il cervello. Paola, provi con la pallina da tennis, come suggeriva. Però lui lo fa anche di profilo, di lato. Ecco, e questa è un'indicazione che il professore ha detto: attenzione, se russate anche quando siete sul fianco, qua ci vuole un accertamento. Professore. Sì, è vero, quando si comincia a russare anche sul fianco, questo è una situazione che spesso si associa al problema delle apnee, e allora ecco, bisogna prendere in maniera in considerazione, diciamo, maggiore il problema. Posso dire anche altre due cose molto semplici. Uno è il problema anche come possibile spia, il fatto di alzarsi 2-3 volte per notte per andare a urinare, per andare in bagno, e questo può essere la spia nei russatori del problema che viene rilasciato un ormone che si chiama ormone natriuretico, ed è un ormone, una sorta di diuretico naturale che viene liberato durante la notte, perché in questa maniera noi andiamo a urinare e si abbassa la pressione arteriosa. Quindi non c'entra niente la prostata, è il russamento. No, Nicoletta, guardi, secondo me molte prostate potrebbero essere salvate se con un cuscino più alto. Se si conoscesse bene questo aspetto del fenomeno che si chiama nitturia, che appunto in un soggetto russatore che fa apnea è legato appunto non alla prostata, ma a questo problema dell'ormone natriuretico. Ma quante ne diciamo a qua essere benessere? Quindi attenzione, se fate pipì durante la notte non è detto che sia la prostata, potreste essere un russatore, merito o colpa di quell'ormone. Professore? Buongiorno. Perché il soggetto che russa e che fa apnea durante il giorno diciamo ha sonnolenza, e anche un'altra piccola spia importante è la cefalea al mattino. Quando i soggetti si svegliano al mattino con una cefalea un po' strana, che poi dura magari un'oretta soltanto, un'ora e mezza e poi va via, ecco, anche questo molto spesso è una spia di un possibile problema di apnea e di russamento. Enrico, però anche la tecnologia ci dà una mano. Solo una parentesi, io conosco un signore che ha trovato una soluzione molto più semplice, cioè ha un'altra stanza e va in un'altra stanza. Vabbè, ma adesso non si può, sai che si rompono i matrimoni, te lo dico. Sì, lo so. Dimmi invece della cosa. Dunque, carina, allora, sapete prima che, dei mercati poi ti fermi. Mi fermo. Sapete che esistono le applicazioni per gli smartphone che fanno un sacco di cose, dai navigatori satellitari a un sacco di altre cose. Allora, ne esistono alcune che promettono, però ho fatto un po' di analisi, non ho delle buonissime notizie, insomma promettono di evitare, cioè di correre ai ripari per evitare che uno russi. Il funzionamento è semplice, nel senso che con il microfono del cellulare loro di notte ci ascoltano e se uno russa loro se ne accorgono e fanno cose varie. Ci sono delle applicazioni che fanno, che ne so, fanno dei suoni strani, oppure addirittura un'applicazione che dice tu ti appiccichi lo smartphone al braccio e lo smartphone vibra. Poi insomma dipende, alcuni dicono sì per me funziona, altri dicono no non funziona. Ma volendo uno può registrare anche sì, una sì, voce, si può anche registrare. Che ti dice tesoro. Ah tu dici personalizzarla? Sì. Allora potenzialmente sì, si può fare. A me adesso non so se le applicazioni disponibili. Devo dire che dall'analisi che ho fatto tra ieri e oggi non hanno un grande successo, cioè non sono nemmeno tanto scaricate, non so se perché russano prevalentemente persone un po' anziane, quindi no, magari che non usano gli smartphone. No, no, ma vero professor Ferini Strambi, non sono solamente le persone anziane che russano, tu non hai sentito i dati dell'indagine Eurisco. Il picco in genere è intorno ai 50-60 anni, quindi insomma non, ormai questa non è un'età da anziano, 50-60 anni siamo nel mezzo della vita insomma. Forse non sono dei grandi utilizzatori di smartphone. O forse non ammettono di russare, sì, perché si confessa poco. Devo andare a sentire che cosa succede sui mercati e poi il meteo, parleremo e stiamo parlando di ronfi, di russamento, ma di notte si fa anche altro, si scalcia, si parla, insomma tutte quelle situazioni che disturbano la nostra notte vengono appunto chiamati disturbi del sonno. Essere e benessere. E Marge, mi è venuta in mente una cosa. Cosa? Se avessimo i soldi di Arti, potrei farmi quell'intervento per non russare. Né ora né mai mi abituerò al tuo russare, come mi sono abituata a dire sotto la panca la capra campa. Tesoro, sei riuscita a dormire? Oh, mi dispiace tanto. Di notte cosa fate? Siamo in fascia protetta, quindi limitatevi a dirmi se russate, parlate, scalciate. Ci ha scritto Enos una mail dicendoci, per dirci, che gusto c'è nel russare se nessuno ti ascolta. È tornato anche, sì, è rimasto anzi Enrico Pagliarini, il professor Ferini Strambi è in linea con noi. Stavamo parlando di queste applicazioni ma non ti ho visto. Queste app. App, si dicono. Che non sono solo per l'iPhone o l'iPad, anche per tutti gli altri cellulari, insomma ce ne sono di vario genere. Dicevo, non mi sembra che stiano facendo un gran successo. Diamo due indicazioni. Sì. Allora, la prima è, se uno le vuole cercare, va su gli app store, i market per le app, sono dei negozi dove si vendono queste cose che si trovano, si raggiungono dal cellulare, da uno smartphone, che sia Android, iPhone, eccetera, eccetera. Uno può digitare russare o russo, insomma, parola chiave per cercare queste applicazioni, oppure, visto che il mercato in lingua inglese è più vasto, snore. Scritto snore, ed è il russare in inglese, e ce ne sono di vario tipo. Allora, ce ne sono di gratuite, grande successo hanno le app gratuite, però come dicono alcuni esperti, nulla è gratuito, quindi bisogna sempre capire che cosa si cela dentro il gratuito. Allora, spesso quando ci sono le app gratuite, poi o ci vendono della pubblicità, oppure in questo caso ci dicono, se non risolvi il tuo problema rivolgiti al tal professore che ti vendiamo i servizi eccetera, però certo sono gratis, sono le scariche, le prova, se non funzionano le butta via, però quelle a pagamento che sono, non è detto sempre, però un po' più affidabili, costano poco. Quanto? 79 potrebbe? Centesimi, 99 centesimi, ce la un possiamo euro e mezzo, fare? Insomma, cosa può, dice professor Ferini Strambi? Ma magari, no, se funzionasse, voglio dire, lo consiglierei a tutti i miei pazienti immediatamente. Allora, intanto Enrico, quindi tu sei assolutamente attrezzato. Io anche sì, qualora mai ti dovesse capitare. Sì, però io andrei in un'altra stanza. Tu andresti secondo in me un'altra la soluzione stanza. Migliore. Abbiamo Alessandra da Biella. Ciao a tutti. Come vuoi, se tu ti fermi io sono contenta. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, intanto vi ringrazio di avermi chiamata, non so se metterla ironicamente o cosa, il russare, perché mi sono sentita dire da lei che le dice amore. No, io non è che io non ho nessuno che mi dice amore, no, ma no. Io vorrei una voce di queste app che mi non so, una bella voce, adesso ci devo pensare, magari che mi dica. Ma c'è sicuramente. Pensa che ci sono un miliardo di app nel così mondo. La passiamo a Alessandra, se la trovo la passo anche a lei. Ecco, sì, perché se no, ma io a volte le dico sinceramente, le dico non amore, ma ti butto giù dal letto, basta. Ah, lei passa proprio alle maniere forti, perché non si può. Dunque, io e mio marito per diciamo, sistemare la cosa, se è andato in un'altra stanza, dormiamo in due stanze separate. Mm. Per forza, però lo sento dall'altra stanza. Ma bisogna proprio cambiare casa a questo punto. No, a questo punto non. Alessandra, ma che verso fa suo marito? Mio marito fa il verso proprio incomincia, come si addormenta, che appena tocca il cuscino, mm-hmm, a letto, incomincia a avere il respiro pesante. Ecco. Poi prosegue proprio al vero russamento, proprio continuo. È un crescendo. Non è cosa, proprio russare che sembra una sega. Una sega, volevo arrivare qua, professor Ferini Strambi, tocca il cuscino e russa, ma è possibile? No, quello della sega tra l'altro è il rumore più caratteristico, insomma, quindi è una cosa appunto che soprattutto nei forti russatori è il rumore tipico. No, mi veniva da sorridere prima quando pensavo, perché voi sapete che io così, insomma, lavoro in un centro di medicina del sonno dove appunto a volte ci ritroviamo più soggetti russatori magari nell'ambito della stessa notte, e vi assicuro che veramente sarebbe da registrare a volte questi soggetti, perché non si riesce mai a creare un'armonia tra tutti questi vari rumori, no? E quindi sembra veramente un'orchestra, diciamo così, con degli strumenti suonati da musicisti non molto esperti, perché proprio veramente si crea un'atmosfera che sembra di essere in un girone dell'inferno, vi assicuro. Quindi, professore lei naturalmente non russerà. Io non russo, no. C'è qualche mio collega, giovane collega così, che insinua questa cosa molto spesso, ma in realtà non russo, per fortuna. Per chi russa già facendo la pennichella, quindi da seduto, che cosa può significare, professor Ferini Strambi? Così rispondiamo a Carlo. Questa è una cosa che indica, e come diceva anche la signora prima, il fatto di avere di vivere accanto a un russatore che comincia subito a russare appena si addormenta, no? Ecco, questo vuol dire che ci troviamo di fronte a un russatore che non scherza, insomma, ecco, uno di quelle un quelle russatore situazioni... di marca, come si dice. Esatto. Anna dalla provincia di Varese, Domenico da Vicenza, poi state pronti perché facciamo un piccolo test. Potresti fermarti e farlo anche tu, che noi abbiamo trovato su un sito di medicina del sonno, un sito inglese che ve lo vogliamo riproporre, ma ci vuole un po' di collaborazione, una cosa semplice. Ma intanto Anna, buongiorno. Buongiorno, io sono una russatrice di professione. Oh. Perché, sì, guardi, io sono 5 anni che sono in cura con l'otorino, ho fatto l'ipertrofile turbinati, ho fatto due tele, sono delle cose al palato, per tirare sul palato, ho fatto la polisonno, niente, invece di migliorare sono aumentati i miei russamenti, vado 20 volte in apnea, dormo di fianco, sì, come diceva il professore. Adesso mi hanno messo un bite perché pensano che sia un problema di mascella che si è spostata in avanti, però io russo lo stesso. Professore, le ha tentate tutte, Anna. Le ha tentate tutte, ma il problema è questo, infatti. Noi adesso così stiamo facendo una, possiamo dirlo, insomma, una trasmissione simpatica sul russamento. Ecco, per carità di Dio, si diceva prima, la maggior parte dei russamenti e dei russatori non sono, diciamo, non rappresentano situazioni gravi e importanti, però poi questo problema non va sottovalutato. E certo, allora, anche quando poi si pensa ai soliti rimedi, no? L'ascoltatrice citava prima il fatto di aver fatto l'intervento a setto nasale, probabilmente ha fatto l'intervento con le radiofrequenze. Ecco, cioè, voglio dire, non pensate subito che questi problemi si possano risolvere con un trattamento, diciamo così, magari a livello naso, a livello banale di tipo chirurgico, perché purtroppo ogni problema va studiato in maniera approfondita e seria prima di passare, diciamo così, alla possibile soluzione. E la soluzione chirurgica, ahimè, non è sempre la soluzione ottimale. E quindi nella nostra ascoltatrice probabilmente il fatto stesso che abbiano adesso pensato al bite, probabilmente c'è anche un problema di mandibola non perfettamente posizionata, pensiamo ai soggetti con la mandibola piccola, no? Rispetto al restante massiccio facciale. Questi soggetti, anche se fanno degli interventi, diciamo, sul naso o sul palato, non risolvono nulla, perché per loro la soluzione sarebbe quella di avere un avanzamento della mandibola, quindi un intervento chirurgico un pochino più serio. Direi impegnativo. Andiamo a Vicenza perché c'è Domenico, poi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Domenico, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Allora, io ho cercato in tutte le maniere di far cambiare il sistema di dormire a mia moglie. Quando eravamo giovani cercavo le maniere un po' più docili, poi un po' alla volta le ho provate tutte e adesso ho trovato il rimedio. Alla sera, prima di andare a casa, prima di andare a letto, mi metto il podcast, le trasmissioni di Radio 24, sì. 3-4 trasmissioni, sì. Vado a letto, attacco le cuffiette ed ho risolto il problema. Mia moglie russa tranquillamente. Bravissimo. E io dormo. Lei, Domenico, è un genio. Lei ascolta Radio 24, la moglie è russa. Perfetto. Vivete felici e contenti. Però, non avete bisogno. Non ascolta Radio 24, si scarica proprio il podcast, le trasmissioni selezionate. Le trasmissioni selezionate. Selezioni, qualcosa di più. Ecco, facciamoci un po' di promo. Selezioni Enrico Pagliarini e Nicoletta Carbone. Sentiamo intanto, noi, grazie Domenico, professore stia lì, noi dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, ma prima voglio salutare il mio amico che si offre volontario per il test, è un attore, un comico, in linea con noi abbiamo Leonardo Manera. Ciao Leonardo. Buongiorno Nicoletta. Ciao, sono molto felice di che tu sia qua. Andiamo a sentire le strade, sei pronto? Sì. Allora sono stai pronto. Lì. Essere e benessere. Siamo qua, tra poco un test che potete seguire, e noi lo faremo in diretta con Leonardo Manera. In linea con noi abbiamo il dottor Alberto Dragonetti. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Sta bene? Grazie. Lei russa? Sì, mi dicono di sì. Io non me ne accorgo. Primario dell'unità operativa complessa di Otorino Laringoiatria all'ospedale Niguarda di Milano. Adesso vedremo un po', cerchiamo di capire come respira Leonardo Manera. Il nostro Paglia deve salutarci. Allora te lo faccio oggi fare. Oggi pomeriggio facciamo il test. Il test. Ciao. E poi guardiamo le app. Sì, vedi che ho capito. Ciao. Leonardo, tu sei pronto? Sono pronto, volevo anche dire che io russo da una parte sola, solo a sinistra, con la narice sinistra, non so se questo già può essere un'indicazione. Ma tutti a te capitano. Andiamo. Chiudi la bocca e premi il lato di una narice per chiuderla. Con la bocca chiusa respira attraverso l'altra narice. L'aria passa senza fatica? O hai la sensazione di avere il naso chiuso? Fai il test ad entrambe le narici. Come va? Ma adesso va abbastanza bene, però non è costante la situazione. In effetti ci sono giorni in cui l'aria passa molto meno. A me non sta passando. Diciamo che comunque non passa proprio liberamente, ecco. Dottor Dragonetti, lei prenda nota. Andiamo alla seconda parte. Sì. Adesso prova a inspirare con il naso tenendo la bocca chiusa. Perfetto. Esprimi un giudizio sulla qualità della tua ispirazione. Leonardo? Da 1 a 10 direi 6, 6 e mezzo. Per essere generosi. Andiamo. Ora apri la bocca e prova a produrre il rumore di chi russa. Adesso fai la stessa cosa ma con la bocca chiusa. Riesci a russare ugualmente? Sì, riesco a russare ugualmente, solo dalla parte sinistra però, dalla narice sinistra. Senti, però tu devi aprire la bocca e devi produrre il rumore di chi russa. Sì, certo. Vai. Il rumore è questo. E solo col naso è questo. Dai che ne abbiamo ancora un pezzettino e poi il dottor Dragonetti ti dà la soluzione del tuo test. Ora spingi in avanti la lingua più che puoi e serrala tra i denti. Prova a fare il rumore di chi russa. Con la lingua in questa posizione, il russamento è forte e chiaro oppure smorzato? È smorzato. Faccela sentire bene che non ho sentito. Eccolo. Dottor Dragonetti. Sì. Che cosa dobbiamo preoccuparci? Ma innanzitutto si devono preoccupare quelli che dormono a fianco di Leonardo. Ecco. Poi mia moglie. Ecco. Per quanto posso capire da questi test, e devo dire anche avendo visto parecchie volte Leonardo in televisione, mi verrebbe da dire questo, che il signor Leonardo ha sicuramente una deviazione del setto con un'ipertrofia dei turbinati e probabilmente ha un'ipertrofia delle tonsille, se non le ha ancora tolte, o anche del palato molle. Mentre invece l'ultimo test è quello che riguarda una possibile ipertrofia della base linguale. Probabilmente il signor Leonardo, questo grazie a Dio non ce l'ha, ce le ha tutte meno una. E probabilmente il suo vero problema, se posso permettermi, e può essere anche un problema di peso, perché. Ma come si permette che ha un fisico scolpito, dottor Dragonetti? No, parlavo di me allora. Ah, ecco, Leonardo. Beh, tutto vero, ho la deviazione del setto, un'ipertrofia dei turbinati, soprattutto quello di sinistra, e ho anche un'ipertrofia delle tonsille, quindi queste tre diagnosi sono assolutamente corrette. E sono leggermente sovrappeso, 5-6 kg in più, diciamo sono 86 kg, sono alto 1,81, dovrei perdere quei 6-7 kg probabilmente. Però dai, c'è tempo. Potresti... Però il mio grande dilemma è se fare l'operazione ai turbinati oppure no, e non anche gli otorinolaringoiatri con cui ho parlato non mi hanno saputo dire se poi la situazione effettivamente potrebbe migliorare oppure no. Allora Leonardo, non ti resta che mettere la pallina, come suggeriva il professor Ferini Strambi, cucita nella giacchetta del pigiama dietro, così ti muovi se quando senti, e usare anche un cuscino un pochino più alto, e poi tappeti per la tua dolce compagna. Grazie Leonardo, alla prossima, e grazie anche a lei dottor Dragonetti. Grazie a voi. Grazie, buonissima giornata. E noi andiamo a Francesca che ci chiama da Firenze. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Niente, il problema che mi è insorto in quest'ultimo mesetto, mesetto e mezzo, è che mi ritrovo a parlare nel sonno senza rendermene conto. Il mio compagno che viene a letto di solito dopo di me dice che facciamo anche dei discorsi, io addirittura gli dico sì ma sono sveglia, ho capito, e la mattina quando mi sveglio proprio non si ricorda nulla di quello che sia successo. Bene, dicono che noi donne parliamo molto, riusciamo a parlare e a rispondere anche mentre dormiamo. Professore. Sì, sicuramente, sonnilocchio è un problema prevalentemente femminile, cioè nel senso che anche gli uomini parlano, ma le donne lo fanno di più anche di notte. E, ecco, no, è interessante questo discorso del poter dialogare, ecco, queste cose in genere avvengono se uno non raggiunge una, diciamo così, un'estrema profondità del sonno, cioè quindi quando il sonnilocco avviene in fasi di sonno ancora un po' leggere si può avere un minimo contatto ancora con l'ambiente che ci circonda, ma non bisogna preoccuparsi più di tanto se diciamo il sonnilocchio rimane soltanto sonnilocchio e non è una cosa frequentissima di tutte le notti. Anche qui bisogna fare particolare attenzione se il problema si presenta molto molto frequentemente e se si associa anche, diciamo così, a della agitazione motoria, cioè quindi se al di là, oltre al fatto di parlare, il soggetto si agita molto. Allora in questi casi è bene parlarne con uno specialista. Invece una chiacchierata notturna con il proprio partner non deve preoccuparci, anzi no, può essere una per raccontarci magari delle cose che durante il giorno non si è riusciti a fare. Professore, intanto io la ringrazio, la saluto. Grazie a voi, grazie a lei, Nicoletta, e a tutti gli ascoltatori. Prima di salutarvi vi ricordo che domani ci sarà l'ultima puntata di Mangia con me. Mi raccomando, compilate il questionario, potrete ancora vincere uno smartbox, anzi due. Infine seguiteci su Twitter, Facebook e scaricatemi. E nel frattempo vi ricordo, domani io vi aspetto qua, dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta. Radio 24. La passione. Si sente. Natura, nutrizione scientifica. Vi ha presentato Essere e benessere.